sera esco, ma non immagini che i miei pensieri incontrino i tuoi, che sorgere del sole saremo noi. Quasi impossibile dimenticare il modo in cui mi hai acceso l'anima. Ho rubato i tuoi sogni ed ora sei vicino a me. Mai, oh mai, mai avrei sperato di vederti al mio fianco. Mai avrei pensato di sentire il tuo pianto. No, mai, non ti lascio sola. Dei tuoi sospiri in ogni lamento, dei tuoi sorrisi ad un passo da me. Quello che accadrà non sarà frutto del destino, solo forza ed impegno personale che ci rende assai diversi, ma in sostanza tutti uguali. Sono a me.